disponi tu, mio caro amico. Io con la sposa, prima che il sol tramonti, voglio quindi partir. Lento, o prence, nel fingerti felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno essere scoperto, il paragon potrebbe negarli soggiacer. So che altre volte fu vincitor, ma un impensato vento so che talor confonde il vile e il forte, né sempre alla virtù né stessa sorte. Seppur importuno con questo tuo noioso perpetuo dubitare, vicino al porto, poiché un tema il naufragio, a dubbi tuoi chi presta fede intera non sa mai quando il naufragio.